Alex 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. La proposta di Alexis Tsipras qui stavolta è piaciuta e anche se tutto è rimandato, il sentiment è positivo. L'accordo per sbloccare l'ultima tranche di aiuti da parte dell'Europa sembra essere alla portata. Il governo ellenico ha accolto buona parte delle richieste europee. Soprattutto sui due punti più discussi, IVA e risparmi sulle pensioni. Secondo il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, resta però comunque molto lavoro da fare. Non abbiamo i tempi supplementari, ha annunciato il presidente Juncker. L'Eurosummit sulla Grecia e i mercati scommettono su un accordo imminente. Atene ha guadagnato così il 9%. Dottor Lorenzo Binismaghi, economista, ex membro della BCE. Le borse esplodono. È un segnale forte che l'accordo è vicino? Le borse però negli ultimi settimane sono salite, poi scese, poi risalite, dunque c'è speranza, aspettative, ci sono delle... Non basta come parametro, insomma. Insomma, aspetterei ancora un po', ecco. Però ci sono delle indicazioni che finalmente c'è un documento greco con delle proposte concrete e dovrebbero lavorare nei prossimi giorni per concludere l'accordo. Senta, Varoufakis dice che con gli eurocrati il dialogo è impossibile, si può decidere solo a livello politico. Ha ragione? Ma è una posizione politica, poi però quando si siede intorno al tavolo con delle proposte concrete per fare le somme, le sottrazioni, divisioni, via dicendo, ci vogliono anche gli esperti per valutare. La stessa Merkel ha detto: guardiamo prima se questi numeri funzionano e poi facciamo un accordo politico. Senta, ma c'è però più in generale un problema di scontri, di culture, di linguaggio con l'euroburocrazia? Ma lì il paradosso è che la Grecia si è trovata da sola contro 18. Cioè il modello di economico che Tsipras ha proposto al suo paese, in base al quale è stato eletto, è un modello abbastanza diverso da quello degli altri 18 paesi. Si basa su un aumento della spesa pubblica, riduzione delle tasse, ritorna a un modello economico molto interventista, assunzioni pubbliche. Questo dagli altri paesi non è facilmente accettabile. Senta, dottor Binismaghi, la Merkel però, leader di questa Europa, può permettersi di perdere la Grecia? Perché prima si dice: ma sì, non importa se va via, poi invece sembra che non sia così. No, credo che lei ce l'abbia sempre avuto in mente questo rischio e questo pericolo, e credo che lei in fondo abbia svolto un ruolo importante nel convincere altri paesi più estremisti, pensiamo alla Spagna, alla Slovacchia, paesi più poveri della Grecia addirittura, che certo, devono dare dei contributi alla Grecia, pur essendo più poveri, per consentire alla Grecia di pagare le pensioni, gli stipendi. Ecco. Ma lei ha capito, credo, che soprattutto nel rapporto molto complicato con la Russia, appunto, perdere un pezzo di Europa in questo momento vorrebbe dire il rischio di disgregazione. Sì, anche Draghi dice che il futuro senza la Grecia sarebbe una vera incognita. Quindi, ma questo è vero per tutti i paesi, dunque cercare di fare tutto il possibile per tenere dentro tutti i paesi è essenziale per mantenere il concetto di irreversibilità, cioè dell'Europa, l'euro c'è e non se ne esce un pezzo, poi tutti si domandano quale sarà il prossimo. Senta, ma la Russia che è sullo sfondo esiste come alternativa o solo psicologica? Ma credo che anche Tsipras l'ha giocata bene, nel senso che questi viaggi in Russia siano serviti così più che altro per come deterrente, in qualche modo come deterrente. Sì, è un paese in crisi che ha grossi problemi economici e sta cercando di trovare una nuova linea geopolitica di alleanze, ma insomma non si fa in 5 minuti. Certo, dottor Binismaghi, Prodi ieri ha detto che la Merkel non sa ancora come usare la sua leadership in Europa, verso l'intera Europa. È vero? Ma credo che dovrebbe ricredersi, perché quello che è successo in questi mesi in realtà dimostrerebbe il contrario. C'erano elementi di disgregazione, centrifughi all'interno dell'Europa, e meno male la Merkel li ha tenuti insieme. Se si legge il resoconto della riunione ieri sera, è lei che è andata a parlare uno a uno ai più riluttanti per dire e spiegare loro: beh, alla fine qualche soldo in più viene andare alla Grecia, se no rischiamo tutti. Secondo me questa leadership piano piano sta crescendo. Ecco. Ecco, gli Stati Uniti premono molto sulla Merkel perché risolva il problema. Che cosa temono soprattutto gli Stati Uniti? Ma di nuovo temono due cose. Uno, che economicamente questa ripresa che c'è in Europa che sta aiutando anche gli Stati Uniti, se la crisi greca riscoppia nuovamente c'è un arresto economico. L'altro è la parte geopolitica, cioè un avvicinamento a Putin. Con la Russia, appunto, certo. Dunque questi due elementi spingano per fare molte telefonate lo stesso Tsipras, non solo la Merkel. Senta, un'ultima cosa da dottor Binismaghi, secondo lei quale sarà il punto di equilibrio necessario? Insomma? Il rischio è che il punto di equilibrio è che alla fine si mettano d'accordo su non solo riforme ma ancora aumenti di tasse. La proposta greca si basa molto su aumenti di contributi, di tasse invece che riforme. Il rischio è che tutto questo poi alla fine non faccia crescere la Grecia e tra un anno ci ritroviamo un paese che ancora non è uscito dalla crisi. Questo, sulla base dell'esperienza passata, bisogna tenere in mente. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mi faccio una foto e poi te la metto su Facebook, più Twitter, Instagram e Pinterest. Passi al giorno davanti a internet? Almeno 5-6 ore. Un 10 ore. Come una droga questo internet. 3-4 ore. Non ho voglia di uscire, allora mi attacco sulla chat. Oltre le 2 ore non vado perché mal di testa, male agli occhi e non mi sento più molto bene, divento molto stanca. Adesso scatta la punizione. Niente computer, niente televisione, niente videogiochi per una settimana, ok? Uso internet per comunicare con le persone, per guardare ogni più curioso video su YouTube, andare nei social network. Per conoscere gente, per stare in contatto con persone senza doversi esporre dal vivo. Rimpiango i giorni in cui c'era solo un numero di telefono e una segreteria telefonica. Adesso invece devi correre a controllare tutti i portali solo per sentirti rifiutata da 7 tecnologie diverse. È stressante. Giovanni Boccia Artieri, professore di sociologia dei New Media all'Università di Urbino, autore di Facebook per genitori e stati di connessione. Dunque, secondo l'ultimo rapporto del Censis sulla comunicazione, a Facebook è iscritto il 77% dei giovani sotto i 30 anni. YouTube raggiunge il 72,5% dei giovani. L'85,7% dei ragazzi usa uno smartphone, 1 su 3 ha a disposizione un tablet. Ecco, dietro al tempo speso sul computer si sta in qualche modo producendo una generazione di internet addicted. Per parlare di addicted dovremmo fondamentalmente trovare delle forme, diciamo, patologiche che sicuramente possono esistere, ma dipendono più dalle biografie, dalle storie dei singoli che dalla tecnologia. Quindi non si può dire che c'è una forma di patologia, di dipendenza dallo stare online. È un fatto individuale. Si può produrre, ma è un fatto individuale che racconta le storie dei singoli, mentre i ragazzi sicuramente stanno molto online, ma contemporaneamente anche offline. Cioè è difficile immaginarci, fare una domanda del tipo quanto tempo stai online, perché il tempo che stanno online si frammenta con la vita reale di tutti i giorni. Certo. E ha a che fare con le notifiche e le cose che fanno per vivere la vita reale. Ma il rapporto tra vita reale e vita digitale, se per gli adulti è una demarcazione sfumata, per i giovani esiste ancora oppure no? Direi che dalle ricerche più recenti, anche quelle che facciamo all'Università di Urbino, sembrano dimostrare che appunto non ci sia una demarcazione così netta né una sfumatura, ma piuttosto una contemporanea vita che si sviluppa online e offline. Ecco, e questa vita che si sviluppa nei due sensi sembra in qualche modo che i ragazzi non si preoccupino della privacy online, è così? Apparentemente sì, in realtà sembra che le ultime tendenze ci mostrino che siano molto più attenti a frequentare, come dire, cerchie ed ad esporsi in maniera controllata. Un esempio eclatante è lo spostamento su WhatsApp per i messaggi rivolti ai propri amici, stando meno su Facebook. Come si gestisce il rapporto tra pubblico e privato nel contesto di internet? Comincia a maturarsi una consapevolezza? Una risposta è questa che mi ha dato adesso. Passare su WhatsApp invece che su Facebook vuol dire avere bisogno di controllare la propria vita, la propria comunicazione in qualche modo. Sì, su WhatsApp e anche su altri applicativi che per esempio permettono di biodegradare i messaggi dopo che sono stati fruiti, come certo. Snapchat, che serve per le immagini e che permette di autodistruggere queste immagini una volta che sono state viste. Sì. Questo vuol dire che, come stavamo dicendo, pubblico e privato non possono essere pensati come una coperta corta, per cui se c'è più pubblico c'è meno privato. Mm. La tecnologia digitale permette di gestire la contemporaneità delle certo. cose. Ma l'esperienza, per essere vissuta, va condivisa per forza in questo tipo di generazione? Tendenzialmente sì, cioè, come dire, condividere l'esperienza fa parte dell'esperienza e riguarda loro, riguarda probabilmente anche tutti gli adulti che pubblicano le foto delle vacanze immediatamente su Facebook per avere un riscontro, e molto banalmente ci siamo abituati, come dire, a stare in contatto con gli altri attraverso strumenti che ci rendono sicuramente più visibili e con i quali possiamo interagire di più con gli altri. Quindi condividere quello che stiamo facendo tende a diventare parte dell'esperienza che stiamo vivendo. Ecco, professor Artieri, ma stare online fa curriculum? Stare online può fare curriculum, paradossalmente, perché si acquisiscono delle competenze poi giocabili in altri ambiti, come ad esempio quelli lavorativi. Se io sono un adolescente, so gestire una community di fan del mio gruppo, della mia band preferita, probabilmente in termini di community management, per un lavoro nella comunicazione in futuro potrebbe essermi utile. Ecco, professor Artieri, però la diffusione dell'insicurezza sociale ha abbassato anche l'età del primo cellulare, anche semplicemente per avere rapporti con i più giovani. È diventata cioè una protesi di cui non si può più fare a meno, sostanzialmente, si abbassa l'età. Sì, diciamo che risponde a un bisogno che abbiamo sempre avuto, che è quello di stare con il nostro gruppo di pari. Certo. Se prima lo potevamo fare, per esempio pensando anche alle città, i luoghi, come dire, più dispersivi, incontrandoci più raramente, oggi sicuramente la prima cosa che si fa quando si arriva in prima media, ma si abbassa ancora di più l'età, è regalare un cellulare ai figli pensando di controllarli. Per loro è uno strumento per fare il loro primo gruppo di WhatsApp, per stare in contatto con la loro classe. Quindi certo. risponde a questo bisogno di stare con i propri pari e anche con la famiglia, tutto sommato. Senta, secondo il presidente del Tribunale dei Minori di Bologna, Giuseppe Spadaro, sì. ogni 15 giorni, dice lui, ci troviamo di fronte a casi di ricatti sessuali tra minori legati a internet. Sarà sempre più così? L'imparare a utilizzare questo tipo di tecnologie misurerà anche l'evoluzione della nostra capacità di stare insieme agli altri. Insomma, ovviamente passa attraverso gli errori, insomma. Passa molto attraverso gli errori, all'ingenuità e al fatto che è molto più immediato poter scattare ad esempio un'immagine e memorizzarla, certo. o copiare o incollare un'immagine che qualcuno ci manda anche nel privato. Sì. Quindi dovremo diventare più cauti, e per questo che dicevo, i giovani stanno molto scaricando app che permettono di produrre messaggi che si degradano, che dopo che si autodistruggono. Quello è il modo di difendersi ed è anche un modo per cogliere poi, prima che sia tardi, la differenza tra il reale e il virtuale. E forse anche per dare valore alle cose che stiamo vedendo, perché nel momento certo. in cui io te lo posso vedere solamente per quella frazione di secondo, l'attenzione che pongo forse è maggiore. Senta, da poco è uscito in Italia il libro I Rule, come educare i figli iperconnessi. Ecco, c'è stata una distrazione del mondo adulto verso le tecnologie e adesso si cerca di riparare. È anche un po' sempre capitato così di generazione in generazione. Però sì, è la battuta che possiamo fare sulla televisione, certo. Per i nostri genitori, certo. eccetera. Prima era la baglia, era lei la baglia. Sì, era lei la nostra baglia e adesso forse appunto sono altri tipi di tecnologie. Sicuramente, come dire, non ha a che fare tanto con le competenze tecniche dei genitori, certo. ma con il fatto di, come dire, come al solito, lasciare abbandonate i propri figli di fronte a qualsiasi tipo di tecnologia, invece di parlarne e farle diventare parte del racconto quotidiano. Certo, poi certo che conoscere le tecnologie aiuta anche a interfacciarsi nell'uso. Questo sicuramente sì, anche perché facevamo l'esempio di WhatsApp, credo che tutti i genitori dei ragazzi che usano WhatsApp utilizzino lo stesso tipo di come dire, piattaforma, il che significa che probabilmente si produce qualcosa di comune che può permettere di capire meglio che cosa fanno i nostri figli lì dentro, perché lo facciamo anche noi. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Ci scusiamo con gli ascoltatori, c'è stato un errore di montaggio nella precedente intervista, sono le 9:25 e 45 secondi. Diagnoclick È la prima ricerca europea che indaga sul rapporto tra giovani, internet e salute e la loro identità. La ricerca ha coinvolto un campione di 1713 adolescenti dai 13 ai 19 anni delle scuole superiori in 10 regioni italiane. Il 77% dei giovani ricerca nel web notizie e informazioni sulla salute. Ecco, avvocato Andrea Catizzone, che cosa l'ha colpito di più della vostra ricerca? Intanto questa ricerca viene fatta dall'associazione Family Smile insieme al Garante, quindi non è una ricerca delle Eurispes. Ciò che mi ha colpito di più è il fatto che intanto il concetto di salute per i giovani non è l'assenza di malattie, non è la salute non risponde al concetto medico di... Cioè cos'è la salute per gli adolescenti? La salute per loro è una rappresentazione ideale di ciò che vorrebbero essere, come interrogano il web come se come la strega di Biancaneve interrogava lo specchio, quindi vogliono specchio delle mie brame, che è la più bella del reame. E i giovani fanno la stessa cosa con internet. E che tipo di notizie cercano in relazione al benessere dei ragazzi? Per esempio, per loro la salute è un corpo scolpito, molto spesso i ragazzi dai 17 anni hanno questa tendenza, oppure ricercano notizie sull'alimentazione, oppure cercano notizie relative al sesso, le malattie trasmissibili, molto anche richieste di informazioni sull'alcol Ecco, ma c'è una distinzione di genere nella ricerca? Diciamo che nelle prime fasi dell'adolescenza no, fino ai 14-15 anni i maschi cercano poco perché evidentemente fanno meno altro, curiosi. Sono meno curiosi e fanno altro, mentre invece a partire dai 17 anni i maschi si avvicinano molto di più i ragazzi al web, però appunto c'è una differenziazione anche nella tipologia delle informazioni. Quindi verso i 16-17 anni si differenzia la ricerca tra ragazzi e ragazze? Sì, per esempio 17 anni le femmine cercano, il 48% delle femmine ricerca informazioni su alcol, mentre invece i maschi di 17 anni sei il 66%. Sulla sessualità a 16 anni il 43% delle femmine richiede informazioni, il 57% dei maschi. A 17 anni poi la differenza è maggiore, per esempio solo il 36% delle ragazze di 17 anni richiede informazioni sulla sessualità, mentre il 64% dei maschi continua appunto ad avere questo tipo di curiosità. Ecco, avvocato Catizzone, ma internet promuove un percorso verso l'autonomia, cioè notizie sempre disponibili, anonimato assicurato, questo cercano? Infatti proprio abbiamo chiesto ai ragazzi e alle ragazze perché ricercano le notizie sul web, il 92% risponde per la disponibilità 24 ore su 24 e anche per la velocità con la quale possono ottenere le risposte. Diciamo che molto spesso nel questionario, era un questionario di 12 domande che noi abbiamo distribuito ai ragazzi di tutte le scuole italiane, loro gli orari in cui cercano maggiormente informazioni sono quelli serali, quindi certo, dopo che si dà la buonanotte, esattamente, dove anche vengono poi a galla le curiosità maggiori che non si sono potute soddisfare durante la giornata. Ma il problema è anche che i giovani non vogliono far vedere agli adulti di non sapere, quindi... Sì, questo c'è sempre stato, diciamo, anche noi non è che ci confidassimo con i nostri genitori, certo. Però adesso loro non si confidano neanche più con gli amici come facevamo invece noi quando non c'era il web, certo. E quindi sicuramente sì, quello che dice lei è vero, c'è la paura di non rispondere ad un modello ideale di persona, di adolescente. Ma in genere sono soddisfatti poi dalle informazioni che trovano oppure no? Ecco, qui c'è una schizofrenia nelle risposte, perché l'88% inizialmente risponde che si sentono rassicurati perché comunque hanno ottenuto delle risposte. Sì. Il 91% si sente ansioso e l'82% confuso, quindi non è effettivamente una schizofrenia degli adolescenti, è che loro interrogano internet per quello che dicevamo prima, no? Certo. Perché comunque c'è sempre disponibile e sono contenti di avere una risposta. Sì, ma poi orientarsi dentro la quantità di informazioni a disposizione è sempre un problema. Esattamente, questa è un po' la difficoltà che noi abbiamo riscontrato con questa ricerca, che ovviamente non vuole essere una ricerca di condanna del web, sarebbe una crociata sciocca, certo. Ma di sensibilizzare soprattutto le istituzioni, ma anche appunto gli insegnanti. Anche un ragazzo messo in una biblioteca poi può perdersi, non sa cosa leggere. Esattamente, infatti noi anche rispetto a quello che è l'orientamento della Commissione Europea vogliamo appunto promuovere una media literacy, cioè un'educazione, un'alfabetizzazione, un corretto digitale, utilizzo. Certo. Esatto. Ah, certo. E poi è un'educazione che è anche una coeducazione insieme ai genitori, perché anche loro devono, come dire, per essere interlocutori, conoscere a fondo. Infatti è un problema di adesso fondamentalmente, perché forse tra 10 anni queste problematiche non ci saranno più, perché i genitori le sapranno, non dico come i loro perché figli. Saranno loro i genitori, e quindi saranno nativi digitali. Esattamente. I genitori. Esattamente. E questo è un momento di passaggio linguistico proprio e culturale molto molto profondo. Un'altra cosa interessante che abbiamo riscontrato è che nella fase della formazione, che è seguita appunto a quella della ricerca dei dati, è che noi abbiamo cercato di coinvolgere i genitori, e quindi qua bisogna un po' tirare le orecchie ai genitori, perché i genitori invece non hanno risposto quasi per niente invece alla fase di formazione. Probabilmente sì, forse c'è una vergogna, una mancanza di tempo, su questo ancora non abbiamo indagato, però certamente nella fase di formazione i genitori hanno risposto molto molto poco. Quei pochi che hanno risposto con entusiasmo e ci hanno ringraziato, anche perché non avevano immaginato, perché poi erano già digitali, erano un po' digitali, e poi soprattutto non sapevano neanche che cosa potessero fare i loro figli con i cellulari che loro le avevano regalato poc'anzi, perché magari di tutte le applicazioni possibile loro ne conoscevano poche. Indubbiamente. Senta, avvocato Casizzone, per chiudere, voi avete un osservatorio permanente che produrrà con continuità ricerche sul rapporto fra i giovani e le varie possibilità della rete, o sì, o sì, cosa? Sì, diciamo, questa è la prima ricerca europea che si fa su questo rapporto internet, giovani e salute, perché sono state fatte altre ricerche ma non su questo argomento. Il nostro la nostra associazione ha questo scopo, e questa ricerca insieme all'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è solo il primo passo ad un'attività di ricerca in questo settore, in questo ambito. Bene, allora seguiremo l'attività di ricerca nelle sue fasi di sviluppo. Grazie avvocato. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS pubblici. Mix 24. Allora, Pietrangelo, come andiamo? Tanto il Ramadan come va? Bene, grazie. Bene. Vabbè, questa canzone? Ho visto oggi una donna bella, particolarmente bella, al punto tale, bella da svelare in se stessa la fragilità propria della bellezza, che è sempre vulnerabile, e il filosofo accanto a me, aggrappato al corrimano della metropolitana, l'ha riconosciuta. E contemplandola mi ha spiegato il destino delle donne soffocate dalla lusinga, quelle attraversate dall'ardore, pronte a barattare la propria carne nella carta di un magnifico libro o nella pellicola di un film, e quindi diventate istinto, che sono fuochi solitari di una notte insonne, e non sono mai un genere le donne belle al modo della bellezza fragile e indifesa, non sono un genere. Lui l'ha riconosciuta, era un fantasma. Un omaggio a Laura Antonelli. La canzone di Nada, Guardami negli occhi. Mario? Mario? Nella tua pentola? Che poesia. No? Vabbè, sono... tu ti devi accompagnare della prosa. Navi da guerra, dai. Thank you. Questi sono gli squilli di tromba dell'inno dei Marines, tanto per cominciare. E di Marines devo parlare perché insomma si è scoperto che la Marina militare americana ha dei problemini di trasporto. Ha 30 unità, diciamo, anfibie per fare questo, ma non sono sufficienti, ne servono ancora 8. L'idea, secondo USA Today, è quella di affittare navi di forze alleate. E sapete qual è il miglior candidato per farlo? A quanto pare l'Italia, perché noi abbiamo il maggior numero di navi disponibili. La San Giorgio. Ci mancano i marinai, eh? Vabbè, adesso poi ti spiego anche perché. Provo la San Giorgio, la San Marco, la San Giusto e due portaerei. Noi abbiamo due portaerei, la Giuseppe Garibaldi e la Cavour. Ora, per farvi giusto un esempio, il Regno Unito non ha portaerei, parliamo della gloriosa marina inglese, ma ha 3 navi d'attacco anfibio. Cioè di un'isola. Sì. La Francia ha la portaerei Charles de Gaulle e 3 navi d'assalto anfibio Mistral. La Spagna non ha portaerei, ha una nave d'assalto anfibio e 2 unità da trasporto anfibio che si chiamano Galizia e Castiglia. Ma. Morale della favola. Siamo armatissimi. Siamo la più grossa marina in ambito NATO dopo quella degli Stati Uniti. Vabbè. Di fatto. Ora, quindi significa che abbiamo speso un sacco di soldi in questa cosa per fare portaerei e non le usiamo. Vabbè. Non le sappiamo usare, non punto. Importa. Molto bravi. Salamino. Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. L'edicola di Piazza Colonna a Roma, quella davanti la Galleria Sordi e di fronte Palazzo Chigi, caro Mario, caro Giovanni, rischia di chiudere. No, è possibile. E certo, perché avete presente la zona. Già hanno abbassato le saracinesche 2 librerie, quelle davanti Montecitorio. Sono spariti i cinema nel cuore politico e culturale della capitale. Sono sbarrati gli ingressi di tutti i centri di aggregazione che non siano le trattorie. Ma quella che rischia di chiudere è un pezzo di storia italiana. Sì. Perché quando si leggevano i giornali, ed erano di moda, quell'edicola, in un certo senso la madre di tutte le edicole d'Italia, era il punto di riferimento ed era anche la tappa dove consumare il bicchiere della staffa. Tutto. Dell'informazione. A mezzanotte, prima di andare a letto, uscivano, si andava lì. Ti dico solo che io lì ho rubato un'intervista a Berlusconi, che comprava giornali come Astra, Sirio, TV bene. Sorrisi e Canzoni, poi aveva visto Micromega e l'aveva mandato via. Scusa l'intermezzo. No, figurati, si andava lì appunto, Mario faceva lo scoop con Berlusconi per godere anche delle prime edizioni fresche di inchiostro. Esatto. Ed era una gara per tutti i giornali arrivare lì, attraversare i capannelli degli affazionati nottamboli e insomma vivere. E adesso invece è tutta una malinconia. Le edicole per sopravvivere, anche quella, devono offrire paccottiglie, souvenir, statuine. E quelle edicole in particolare, rischiando di chiudere, non si consegna a un neutro fine d'esercizio, ma proprio il sipario su un'epoca. Perché l'edicola intanto è in ostaggio delle transenne, sparse dappertutto, che impediscono il passaggio dei cittadini. E poi lì il cliente numero uno di quell'edicola, niente meno che il palazzo del governo, sapete, non paga. E come scrive oggi il giornale, il super premier, cui piace pensarsi nel far ripartire l'economia, adesso affossa un pezzo di storia italiana. Ecco, ha rottamato l'edicola. Il mio giardino, gardenia, 4 ruote, 4 zampe, cani, una rivista di razza, essere, volare, correre, il mio condominio, grazie, scarpe sport. Le specialità di Lisa Bionda. Vabbè. Abbiamo visto anche la chiusura. Gli stessi giornali che prendeva Berlusconi. Magari si informava. Sara Tardelli. Beh, mi disse, poi ci racconto. Siamo così. A noi donne capita spesso di essere irrequiete, intermittenti e umorali. Spesso però si tratta di infelicità che non riusciamo a trasformare in carburante per cambiare la nostra vita. Siccome l'estate diventa anche il tempo dei buoni propositi, è uno dei più abusati e mai realizzati, è da settembre ricomincio da me. Ecco che a Milano è partita una start-up che si chiama proprio come la sfida per noi più ardua, ricomincio da me. C'è un team di esperti in vari settori, dal business fino addirittura alla cura dell'immagine, pronto a supportare le donne che davvero vogliono cambiare ciò che le rende infelici. Pubblicità. Mix 24. Il canzoniere Pietrangelo. Strade lunghe e diritte, case piccole pitturate di rosso, di giallo e blu oltremare, sperdute in mezzo ai filari di viti. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, una bolla ancora. Allora, Money, Pink Floyd, perché parliamo di un evento luttuoso e di un funerale, ma un funerale che ha come, diciamo, filigrana quella del denaro. E si è svolto nella cattedrale di St. Patrick's a Manhattan un funerale molto importante, quello di James Bainbridge Lee, noto a tutti nel mondo della finanza come Jimmy. Era il vicepresidente di JP Morgan, è stato uno degli uomini chiave della finanza americana, l'investment banker che per 40 anni è stato dietro tutte le più grandi operazioni finanziarie. Bene, chi c'era al funerale? Tutto il gotha della finanza americana, quindi di fatto mondiale. Sono alcuni nomi: Michael Bloomberg, Mike Angelakis, Dick Betty, Gary Bettman, Sheryl Sandberg di Facebook, David Rubenstein, Charlie Rose, Paul McNamara, Marissa Meyer. Vabbè, tutti Yao, adesso Giovanni, più potenti. Una cosa era la riunione dei titani. E allora, proprio per questo, dovete sempre distinguere qual è il vero potere. Non quello che appare per forza e così via, ma un altro, quello che ci racconta sempre Gordon Gekko. I più di questi laureati di Howard non valgono un cazzo. Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. A volte vinci, a volte perdi. Certo. Ma continui a combattere. E se vuoi un amico, prendi un cane. Capito? Abbiamo capito. Salamino! Alexandre Dugin, filosofo e scrittore, è il teorico dell'euroasiatismo. Lui ha anche un progetto politico, l'unificazione di tutti i popoli di lingua russa attraverso lo smembramento delle repubbliche centroasiatiche. Ospite a Milano ieri per la presentazione del suo libro Rinascita di un impero, la Russia di Vladimir Putin, è stato intervistato da Sebastiano Caputo sul Libero, e quella pagina è ricca di cose assai interessanti, perché contro Dugin in tutto l'Occidente vige un ostracismo degno del terzo e più letale dei totalitarismi, è quello liberale, come denuncia Dugin, che censura nel nome della libertà di pensiero e di espressione. Io leggo dei passi assai interessanti, dove descrive la realtà orwelliana in cui viviamo, che è quella del migliore dei mondi soft, dove si sanzionano personalità che esprimono opinioni diverse. È un'accusa ferocissima quella di Dugin contro il mondo unipolare diretto da Washington che ci porta al disastro, e Renzi, dice, indicando proprio il premier italiano, è un ostaggio, e dice pure che il Nord Italia paga su tutti questa politica delle sanzioni, e poi accusa la politica estera americana di governare attraverso il caos. Ma quello che mi interessa segnalare agli ascoltatori è il tema chiave, che è la lotta al terrorismo. E qui Dugin offre uno spunto inedito e sconvolgente se si considera come la Russia storicamente affronta in Cecenia un conflitto vecchio di secoli. Dice Dugin: è l'Islam tradizionale, parte integrante dello spirito russo, a fare la guerra all'ISIS e al terrorismo. Ecco, un punto di vista inedito dove racconta come la profonda identità cristiana russa, nel suo spirito profondo, sia legata da sempre alla tradizione dell'Islam, l'una indiana. Lezione profonda. Mario, l'ultima bolla? L'ha evocato Orwell, quindi io prima però... Quando canta Bruce è il numero uno, si parla di politica è un disastro, ma quando canta, sentilo qua. Allora, velocissimo, solo per dirti questo, oggi alle 11 c'è un appuntamento importante, o almeno dovrebbe essere tale, cioè c'è la presentazione della relazione annuale del Garante per la Privacy, in un mondo sconvolto dalla tecnologia, come sapete c'è anche Mattarella, e va bene, cerimonia a parte, sarebbe bello leggere un passaggio sulla nuova legge che ha sostituito il Patriot Act negli Stati Uniti, perché è assai interessante, ha cambiato alcune cose, sezione 215 mi pare, del vecchio Patriot Act, ma ha lasciato intatta tutta l'attività dell'NSA sul monitoraggio dei dati esteri prodotti dai grandi, dalle grandi aziende tecnologiche americane. Significa che la pesca a strascico di NSA e delle altre grandi agenzie di intelligence sui nostri dati continua senza problemi. Quindi non cambia sostanzialmente? No, cambia per gli americani in casa, ma non all'estero. Nel mondo. Sarebbe carino ricordare l'indignazione che vi fu da parte di tutti i governi quando dissero: ah, io ci hanno spiato, e adesso cambia tutto, rompiamo le relazioni diplomatiche. Non è successo niente. Niente. Marina Milone, qual è la storia che raccontiamo oggi dopo il giornale radio? Sì, Giovanni, oggi ricordiamo un magistrato impegnato nella lotta contro il terrorismo nero. È Mario Amato, sostituto procuratore della Repubblica a Roma, ucciso sotto i colpi dei NAR davanti alla fermata dell'autobus mentre sta andando al lavoro. È il 23 giugno del 1980 e lo abbiamo definito un eroe del quotidiano perché va avanti, anche in completa solitudine, per fare semplicemente bene il proprio lavoro. Raccontiamo la sua storia. Bene, dopo il giornale radio, la storia di Mario Amato. Una notizia al volo solo per dire che la Grecia alla fine si salverà perché la BCE ha appena deciso di innalzare il tetto della liquidità di emergenza. Sai che non si danno soldi se poi non pensi che vada bene. No? Appunto. Vabbè. E quindi chiudiamo la prima ora della trasmissione con una buona notizia e prima della pubblicità, Mille giorni di me e di te, di Claudio Baglioni. Io mi nascosi in te, poi ti ho nascosto da tutto e tutti per non farmi più trovare. E adesso che torniamo ognuno al proprio posto, liberi finalmente, non saper che fare. Non ti lasciare un motivo